Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti e soprattutto ai grandi appassionati di mozzarella di bufala campana di OP. Perché? Perché con un provvedimento che entrerà in funzione il 1° luglio, ma è stato varato nel 2008, i caseifici che non producono esclusivamente mozzarella dovranno interrompere la produzione di questo giacimento gastronomico straordinario, che è un po' il simbolo, è uno dei simboli del Made in Italy. E quindi noi vogliamo andare a capire perché. Perché succede questo? Cosa c'è dietro? Creerà dei grossi problemi sul mercato? Farà alzare i prezzi? Ma soprattutto andare a verificare perché è stato varato. Ma io devo dire, innanzitutto devo lamentare la poca disponibilità del Ministero delle Politiche Agricole a intervenire. È stato chiesto appunto di portare, come per così dire, la loro giustificazione, perché hanno varato questo provvedimento, e invece silenzio assoluto, non sono intervenuti. Quindi dovremmo un po' brancolare nel buio, ma cercheremo di capire il perché. Allora io vorrei cominciare da Bruxelles, perché? Perché tutto sommato le DOP vengono così dichiarate in quel di Bruxelles, soprattutto con Paolo De Castro. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, ma è stato anche Ministro delle Politiche Agricole in Italia. E Paolo, volevo subito chiederti, ma e Bruxelles cosa ne pensa di questo provvedimento? Nasce a Bruxelles oppure, diciamo, il Ministero delle Politiche Agricole ha potuto, no, per conto suo varare questo provvedimento? No, questo provvedimento, drammatico provvedimento del 2008, come ricordavi tu, non ha nulla a che fare con Bruxelles, ma è una legge nazionale che venne costruita, diciamo, magari anche inseguendo un'idea giusta, e cioè era il ragionamento che uno stabilimento che si dedica alla produzione delle mozzarelle di bufala campana DOP non debba fare anche mozzarelle non DOP. Ora, il problema è evidentemente normato da questa legge, e non ci si è resi conto che un provvedimento del genere mette a rischio l'intera filiera, perché noi dobbiamo avere dei prodotti DOP, non degli stabilimenti DOP. Quindi il ragionamento è banale, bisogna fare in modo che tutti gli stabilimenti di mozzarella di bufala campana, che utilizzano solo esclusivamente latte proveniente da allevamenti bufalini certificati, possa al suo interno produrre sia le mozzarelle di bufala campana DOP sia anche sottoprodotti, come tra l'altro tecnicamente sarebbe impossibile evitarlo, come ricotte o altri prodotti che non sono invece prodotti DOP, ma sempre nell'ambito dello stesso latte proveniente da allevamenti certificati, e quindi non autorizzare assolutamente stabilimenti che producono mozzarelle con latte proveniente da allevamenti bufalini certificati e magari anche latte importato o cagliate importate, ecco, questo, da fuori. Questo è l'elemento che dobbiamo evitare. Questo mi sembra che sia il punto, però io dico, non c'era bisogno di varare un provvedimento quando ci sono i NAS, no, quando ci sono la polizia, no, delle politiche agricole, quindi perché, no, ricorrere a un provvedimento? E perché ci fu purtroppo nel 2008, in quel momento cruciale, ci fu un dibattito parlamentare, ci fu anche a mio avviso una certa disattenzione, come spesso avviene nel nostro paese, quando poi si rinvia di 5 anni l'entrata in vigore di un provvedimento, per cui poi tutti all'epoca dissero, beh vabbè, poi vedremo prima che entri in vigore come riuscire ad aggiustare le cose. Siamo arrivati maledettamente alla data oramai di inizio, 1° luglio 2013, e ancora non c'è un provvedimento. Io mi auguro almeno un provvedimento che possa consentire, visto anche la situazione difficile che sta vivendo il nostro paese, senza un governo e senza un Parlamento in piena attività, e penso che l'unica cosa che si possa fare in tempi rapidi è tentare un rinvio di almeno alcuni mesi finché non avremo un governo e un Parlamento, perché credo che nessuno possa opporsi ad una ragionevole applicazione delle norme comunitarie senza questa legge nazionale che ne ha dato questa interpretazione un po' fasulla. Grazie a Paolo De Castro. Ricordo il numero verde, chi vuole intervenire, 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Avete sentito, il problema è sul controllo del latte, qui sta il punto. Perché? Perché pare che arrivi molto, molto latte dai paesi dell'est, pare che arrivi latte congelato, insomma, che si vuole controllare di più la filiera. Ma io chiedo subito a un caseificio Riva Bianca di Pestum di Gennaro Gennaro D'Alessio, il proprietario. Gli chiedo, ma siete controllati o non siete controllati, Gennaro, sul latte che usate? Buongiorno Davide e a tutti gli ascoltatori. Noi siamo super controllati, penso che è una cosa risaputa. Abbiamo ogni giorno controlli di ogni natura, sia sulla qualità del latte, sia sulla qualità delle mozzarelle in uscita. Quindi siamo veramente uno dei prodotti più controllati che possa esistere in Europa oggi. Il problema non sussiste da questi controlli, ma da un, come ha detto il ministro De Castro, da un'errata valutazione. Cioè, noi ci abbiamo purtroppo addosso un brutto marchio, così come regioni del sud. E allora io dico, l'agricoltura del sud è il vero motore di tutto il sud, sembra strano, ma è così e nessuno lo vuole riconoscere. E la mozzarella di bufala campana domina su tutti, e penso che noi ci siamo conosciuti con la San Patrignano in una fiera, la prima sua fiera, proprio per l'eccellenza, e che è riconosciuta questa eccellenza della mozzarella in tutto il mondo. E allora io mi chiedo, perché tutto questo? Io penso che la legge sia scritta male, perché anche diciamo il nostro caro Marini, presidente della Coldiretti, mi dà un'interpretazione che abbiamo dato anche noi come associazione, come consorzio di tutela, e cioè si può fare tutto ciò che si vuole pur con il latte proveniente dall'areale DOP nello stabilimento. Ora, la nuova legge che è uscita mette in dubbio questa. Allora, l'interpretazione che ne danno le persone di buona volontà è una cosa, quello che è scritto nella legge del 2008 e che è stata appunto con un decreto stabilita oggi, ne dice un'altra, solo esclusivamente mozzarella. Allora, questo sarebbe la morte di tutti i caseifici, la fine del DOP, perché nessuno può buttare via prodotti. Se io una mattina non riesco a collocare tutta la mozzarella. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, ripeto, appunto stiamo parlando di mozzarella, dei provvedimenti, cioè dei legami collegati al provvedimento che partirà il 1 luglio. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Abbiamo Donato dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Donato. Sì, buongiorno Davide, ascolto sempre le vostre trasmissioni. Prego, prego, dica, dica. Interessanti. Ma guardi, io voglio dire, io ho una tipografia, faccio etichette, io penso che i problemi dei prodotti DOP e i prodotti eccezionali che abbiamo in Italia siano prevalentemente nelle etichette, cioè le etichette dovrebbero presentare in prima facciata ben evidente tutti quelli che sono le caratteristiche del prodotto, diciamo. Perché le faccio un esempio, io sono andato a vedere nei supermercati, uno va a cercare, vedi, bello, grande, davanti, prosciutti al tortellino, poi vai a vedere dietro il primo elemento, la carne di suino. Cioè, la legislatura, quando fanno, Senta, fanno in modo... Sì, Donato, lei ha ragione sulla poca leggibilità delle etichette, ma qui il problema è molto più importante, quindi secondo me qui c'è un problema di produzione, c'è un problema, come aveva visto, probabilmente di controlli della provenienza della filiera, di controlli della provenienza del latte. Questo credo che sia il punto fondamentale. Ma voglio tornare un secondo a Gennaro D'Alessio, per chiedere, lei Gennaro ha un stabilimento che produce solo mozzarella o da altri prodotti anche? No, noi produciamo soltanto mozzarella, prendendo latte solo dalla Reale DOP. E quindi però, questo lo voglio far capire a tutti gli ascoltatori, noi non possiamo sapere se quel giorno, come stavo dicendo prima, possiamo consumare tutto il latte che è entrato, consegnato dalla nostra stalla o da qualche altro allevamento che c'è bisogno, ma sappiamo al giorno per giorno quando mozzarella si produce. Quindi quel latte che non viene utilizzato, noi lo facciamo trasformare in caciocavalli e un particolare tipo di formaggio alternativi che abbiamo fatto, ma sempre e assolutamente con latte di bufala della Reale DOP. Bene. Allora, tutto questo, anche questo, secondo l'interpretazione che è scritta nella legge, che poi vogliamo leggere tutto quello che vogliamo leggere, ma non c'è scritto. Allora io mi chiedo che sia riscritta per bene la legge. Bene. In questa direzione. Grazie a Gennaro D'Alessio. Renato da Napoli, un radioascoltatore. Buongiorno Renato. Mi consenti di parlare di pizza in una trasmissione dove si parla espressamente di mozzarella? Beh, sai, la pizza... Anche perché è un ingrediente tipico. Però basta che sia veloce. Velocissimo, volevo segnalarti questo fatto. Io a Napoli abbiamo tante pizzerie che si fregiano della, della scritta pizza doc, ma in effetti la pizza doc prevede l'uso di olio extravergine. Io ti invito a venire a Napoli, farti un giro e trovare una pizzeria che usa l'olio extravergine, una sola. Bene, allora guarda, stiamo andando completamente fuori, però il tuo è un interrogativo che lasciamo lì e magari ci rioccuperemo di questo problema anche della pizza. Ora voglio continuare e proseguire sul discorso della mozzarella DOP. Abbiamo con noi Giuseppe Politi, che è il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, quindi della CEA. Voglio chiedere a lui come vede questo provvedimento che scatterà il 1 luglio. Ma noi diciamo questo, cioè era un provvedimento necessario, cioè nel senso di noi da fare chiarezza, tutelare, dare più certezza ai consumatori, ma anche agli allevatori. Certo deve essere interpretato in maniera corretta, cioè nel senso che per ciò che riguarda i doppi stabilimenti ci devono essere, però permettendo sostanzialmente che possano essere lavorati altri prodotti, magari non la mozzarella DOP, ma formaggi, ricotta, provenienti però in maniera rigida dallo stesso zona del latte di bufala, insomma, che viene utilizzato per la DOP, altrimenti c'è il rischio che si possa prestare, come dire, a inconvenienti, chiamiamoli in questo modo, per ciò che riguarda la mozzarella DOP. E quindi la massima sicurezza con i doppi stabilimenti, ma anche rafforzando la tracciabilità del prodotto stesso, che oggi prevalentemente è concentrato sulla produzione, ed è bene, ma deve essere esteso a tutti i passaggi all'interno della filiera, la raccolta e la lavorazione dei caseifici, questo nella tutela stessa degli stessi caseifici. Bene, rimanga con noi, sentiamo Giulio dalla provincia di Napoli, un radioascoltatore. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Io più o meno volevo dire quello che stava dicendo il signore prima, nel senso che ai vertici di questo consorzio purtroppo ci sono dei grossi industriali che vogliono che questa legge non entri in vigore, perché è il loro interesse che la mozzarella venga fatta anche con non solo latte di bufala campana, come avviene normalmente. Per cui forse io credo che l'unica soluzione Ma guardi, lei ha già lanciato veramente un boomerang, e io ho con noi, guarda caso proprio dopo di lei, Antonio Lucisano, che è il direttore del consorzio di mozzarella campana DOP, e quindi ha sentito Antonio, diciamo, questa accusa, perché è un'accusa, e voglio sentire Lucisano cosa ne pensa. Sì, buongiorno. Purtroppo io comprendo perfettamente, diciamo, queste perplessità e queste considerazioni, solo che bisogna entrare nel merito del problema. Bene ha detto Paolo De Castro nella sua introduzione, noi riteniamo che questa legge sia assolutamente iniqua, sia assolutamente, a parte che è priva di qualunque precedente nella legislazione europea, non soltanto italiana. Quindi detto che la legge così com'è è assurda, noi dobbiamo spiegare che la tracciabilità e la trasparenza della filiera è esattamente l'obiettivo del consorzio di tutela. Noi siamo assolutamente per la massima tracciabilità e per la più ampia trasparenza della filiera, tant'è che un anno e mezzo fa noi, consapevoli di questo rischio, di questa legge del 2008 che, come al solito in Italia, poi produce gli effetti dopo ben 5 anni, abbiamo presentato alle regioni, noi abbiamo ben 4 regioni con le quali confrontarci, la Campania, il Lazio, la Puglia e il Molise, una proposta di modifica del disciplinare che risolverebbe alle fondamenta il problema. Che cosa c'è in questa proposta? Primo, c'è quello che diceva Paolo De Castro e quello che hanno detto anche gli altri amici dopo, cioè l'obbligo assoluto per i produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP a non comprare un solo litro di latte che non sia certificato DOP. Quindi su questo noi eravamo stati, come dire, facili profeti, l'avevamo già inserito ben un anno e mezzo fa, purtroppo però senza avere alcun riscontro. In secondo luogo abbiamo detto, guardate, la situazione attuale, la situazione che complica la trasparenza della filiera è dovuta ad un disciplinare che anche questo è unico nel suo genere, perché nessun altro formaggio DOP ha un vincolo come ce l'abbiamo noi, che entro 60 ore dalla prima mungitura del latte bisogna produrre la mozzarella di bufala campana DOP. Se non rendiamo flessibile questo vincolo, che fa sì che dopo 60 ore il latte, seppure DOP, che tu hai nello stabilimento, non puoi più utilizzarlo per fare mozzarella DOP, ecco che nascono le esigenze assolutamente non superabili, di dover realizzare degli altri prodotti. Vogliamo che tutto questo sia appianato e il nostro slogan è che solo latte DOP vada nella mozzarella DOP, ma possibilmente tutto il latte DOP vada produrre mozzarella di bufala campana DOP, per la quale siamo famosi nel mondo. Bene, grazie. Io sento di questa, diciamo, chiarimento. Ora continuiamo perché vedo che siamo ricchi di telefonate, nonché di SMS. Vuol dire che la mozzarella è un qualcosa che sta a cuore a molti italiani. Sentiamo Mario dalla provincia di Caserta, quindi andiamo in area di produzione. Prego Mario. Pronto? Sì, prego Mario, parli. Chiedo scusa. Per me, cioè, questo è un argomento importante. Il fabbisogno è poco. Il latte di bufala costa molto, quindi per fare un chilo di mozzarella ci vorrebbero dai 5 ai 7 litri di latte, hai capito? Sì. Il più onesto impiega il 30% di latte di bufala per fare un chilo di mozzarella, hai capito? Ho capito, bene, non si può fare di tutto un erbo un fascio, caro Mario, credo che insomma bisogna fare anche distinguere. Lucisano, si può fare di tutto un erbo un fascio? Ma no. Veramente sono affermazioni che fanno saltare sulla sedia. Allora, per produrre un chilo di mozzarella di bufala campana DOP ci vogliono 4 litri e 2 di latte di bufala DOP, e il nostro prodotto è prodotto esclusivamente al 100% con latte di bufala proveniente dal territorio autorizzato dall'Unione Europea. Su questo, per favore, non diciamo delle sciocchezze, perché sono proprio al di fuori di ogni logica. Quello che il signore diceva prima, i 7 litri ci vogliono per produrre un chilo di mozzarella vaccina, che è tutt'altra cosa e non c'entra niente con il nostro prodotto. Il nostro latte è un latte che costa il 30% in più del latte proveniente da altri territori. Allora, che cosa vuol dire? Che essendo il nostro latte un latte di altissimo valore rispetto a tutti i latti concorrenti di bufala che provengono da altri territori, noi dobbiamo capitalizzare al massimo questa risorsa che abbiamo per far sì che i nostri allevatori non subiscano una concorrenza che sul prezzo sarebbe assolutamente invincibile da parte di terzi. Ecco perché abbiamo detto subito: chiudiamo la filiera, facciamo in modo che chi produce mozzarella DOP possa utilizzare solo ed esclusivamente latte DOP. Noi siamo stati chiarissimi, purtroppo però se dall'altra parte abbiamo delle istituzioni che non ascoltano o che come al solito escono con provvedimenti draconiani dall'alto e che inseriscono dei vincoli insostenibili sul piano economico ma sul piano anche sociale, perché porterebbero alla rovina 1800 allevamenti, perché di questo parliamo. Se noi oggi lasciassimo che questa legge andasse in porto, avremmo che dal 1 luglio questi 1800 allevatori non sarebbero più attirare il loro latte. Grazie, io chiedo a Politi se è d'accordo con questa, diciamo, questa chiosa di Antonio Lucisano. Ma si dice che non bisogna fare populismo, ma non bisogna fare neppure allarmismi inutili, secondo me. Cioè è un interesse di tutta la filiera, dagli allevatori ai caseifici, e dare le massime certezze, quindi in un certo senso, però interpretando bene le leggi che riguarda sia i doppi stabilimenti, ma anche non gettando, come dire, punti interrogativi sul consumatore. Ecco, io vorrei capire il perché i caseifici, in questo caso il consorzio, insiste tanto nella modifica del disciplinare per ciò che riguarda le cosiddette 60 ore della lavorazione, ma se è latte che proviene tutta dalla zona top, così come viene detto, sappiamo che è insufficiente rispetto alla domanda del mercato, insomma, e facciamo, quindi non riusciamo a capire perché bisogna permettere che venga tenuto più di 60 ore, quindi in un certo senso può essere congelato, e in un certo senso si presta un interrogativo. Certo. Un interrogativo al consumatore, allora può venire latte anche fuori dalla zona, insomma, quindi stiamo attenti a questo. Spesso vogliamo fare i realisti più del re, insomma, ecco, gettando grossi punti interrogativi sui consumatori. Grazie Politi e grazie a Lucisano. Devo dire che veramente ci sono tantissime telefonate che prego ora di attendere. Armando, Maria, Pietro, insomma, attendete, perché ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco dopo gli stacchi anche pubblicitari. Ci sono tantissimi anche SMS. Devo dire che è molto sentito questo argomento. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di mozzarella, di questo provvedimento del 1 luglio che appunto impedirà a chi non ha uno stabilimento unico di produzione di questo giacimento gastronomico, di non poter più continuare nella produzione appunto della mozzarella campana, di bufala campana di IOP. Bene, sentiamo Maria dalla provincia di Salerno. Dicevo che c'ho tanti radioascoltatori. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io chiamo da Battipaglia, che è un po' il cuore della produzione della mozzarella di bufala. Qui abbiamo la fortuna di avere tantissimi caseifici dove possiamo comprarla fatta davanti a noi, mozzata ancora a mano, eccetera. Calda, quindi calda ancora. Io volevo solo dire questo, che insieme alla mozzarella chiaramente qui vengono prodotti tanti altri formaggi, dalla ricotta rigorosamente di bufala allo yogurt, eccetera, sono dei prodotti eccellenti. Io credo, è una mia personale opinione, ma la esterno, che alla base ci sia un problema politico semplicemente. E io credo che si voglia affossare definitivamente un prodotto talmente prezioso per l'economia delle nostre zone per favorire i caseifici del nord. Non a caso ricordiamoci chi ha fatto, chi era ministro delle politiche agricole in quel periodo. Sì, bene, questo provvedimento lo ricordo, era quell'epoca 2008, era il ministro Zaia. Bene, perfetto. Allora io rivolgo subito a due personaggi importanti, di rappresentanti di due associazioni molto importanti, la Coldiretti e la Confagricoltura. Allora cominciamo da Stefano Masini. Buongiorno Masini. Buongiorno. Allora, provvedimento ad hoc per favorire le produzioni del nord? Direi proprio di no, al di là di qualsiasi battaglia geografica, il provvedimento ha una sua precisa ragione, che è quella di impedire la continuità di fenomeni di frode e contraffazione che purtroppo anche in questo settore, seppure al sud come al nord, l'Italia è ricca di soggetti che per lucrare l'attenzione che i consumatori di tutto il mondo hanno per i prodotti made in Italy oggi investono appunto in imprese criminali. Allora, la norma nasce correttamente con un obiettivo, che è quello di separare la filiera di chi produce mozzarella con denominazione di origine registrata rispetto ad altre filiere lattiero-casearie. Poi purtroppo nella fase della traduzione, vale a dire nel decreto ministeriale adottato, ricordiamolo, 5 anni dopo, quindi con colpevole ritardo e scritto male, traduce la separazione della filiera con quella della esclusiva destinazione, e questo ha comportato chiaramente una serie di problemi pratici, per cui letteralmente chi produce oggi mozzarella DOP non potrebbe produrre, sia pure a partire dal latte di bufala autentico, anche ricotta, oppure dedicare all'immissione sul mercato mozzarelle di bufala non a denominazione ma di pezzatura diverse e comunque autentiche. Quindi siamo di fronte ad una sorta di irragionevolezza da parte del legislatore e dell'amministrazione che per non tornare su un'interpretazione ragionevole di buonsenso rischia di rimuovere, di allontanare nel tempo la giusta applicazione di un decreto che avrebbe portato trasparenza nel settore. Allora io voglio chiedere a Gian Domenico Consalvo della Confagricoltura appunto se non ritiene che siano sufficienti per smascherare le frodi NAS, Polizia delle Politiche Agricole, Carabinieri e via discorrendo, e quindi ci sia necessità di questo provvedimento. Buongiorno Consalvo. Buongiorno e grazie per l'attenzione e per l'invito. Io da campano, perché sono anch'io di Salerno, sono molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Sicuramente si deve partire dalle due norme nazionali, quella del doppio stabilimento e quella della tracciabilità, perché sono sicuramente le prime cose che devono assolutamente garantire il consumatore. Però io vorrei partire da un messaggio più positivo. D'accordo le frodi, d'accordo tutto, però in questo momento noi abbiamo a che fare con prodotti di altissima qualità. Gli imprenditori campani sono gli imprenditori che da soli garantiscono questo tipo di percorso, e vi dico ancora di più, c'è finalmente un tavolo regionale che mette insieme i produttori con i trasformatori sani, e con loro naturalmente si sta costruendo questo percorso di assoluta trasparenza, partendo da una tracciabilità che vogliamo che sia una tracciabilità campana, perché gli imprenditori campani insieme alle istituzioni campane sono da sole in condizione di poter garantire il consumatore, cosa che già fanno da sempre, perché quello che dice il consumatore di Battipaglia in fondo è così, cioè la qualità del prodotto è una qualità al di sopra di ogni sospetto, e da lì dobbiamo partire. Bene, sentiamo, abbiamo tantissime telefonate da Napoli, da Salerno, questo fa molto piacere che ci sia grande interesse e gli ascoltatori siano ascoltatori di Radio 24. Allora sentiamo Carlo da Salerno, che mi sembra sia un avvocato che si occupa di questi argomenti. Buongiorno Carlo. Buongiorno, mi chiamo Carlo, vivo a Salerno anche se sono napoletano, quindi è la perfetta sintesi del certo. vostro tipo di ascoltatore. Certo. Sono cresciuto a Mozzarelle, prima quello del Casertano quando ero bambino a Napoli, adesso quello del Salernitano, e studio specificamente le problematiche di questo settore. Gli addetti ai lavori mi conoscono bene. Sarebbe troppo lungo il discorso sul piano tecnico giuridico. Sì, infatti non dobbiamo cadere. Costituzionale, sì. Per non dire altre cose. Sì. Purtroppo nasce da una forma di estremismo ideologico degli anni di inizio anni 2000, quando vi erano altri ministri dell'agricoltura. Non tiene conto delle esigenze concrete, reali e quotidiane del prodotto, e purtroppo è soltanto, e sono in grado di documentarlo in qualunque sede, l'ennesimo episodio di un attentato ad una positività economica del nostro territorio. Mi dispiace molto di dover dire queste cose, perché io prima di essere campano vorrei essere cittadino italiano, e purtroppo devo dire che una normativa fatta con molta superficialità, mi auguro solo con molta superficialità, rischia di distruggere un prodotto che è frutto di secoli Bene. Di sacrifici. Grazie a Carlo. Sentiamo un altro da Napoli, Ernesto da Napoli. Buongiorno Ernesto. Buongiorno, io sono Ernesto Bondonno, sono un allevatore del Casertano e mi interesso... Allevatore di bufale quindi? Sì, allevatore Vabbè. Di bufale. Prego. Nonché rappresentante della Confagricoltura. Importante che, cosa diceva anche prima il dottore Gonsalvo, che esiste in regione un percorso, cioè un accordo che si sta realizzando proprio in questo periodo, che prevede un percorso chiaro, che parte da una tracciabilità, perché noi dobbiamo leggere queste due norme che furono fatte appunto già da 4 anni con un chiaro obiettivo, cioè quello di fare in modo che tutte queste problematiche che possono creare, oltre al sospetto, anche l'aspetto più complicato, cioè il rischio di creare una concorrenza sleale tra produttori seri e produttori che invece possono utilizzare altri sistemi. Quindi va letta un obiettivo di tracciabilità chiaro, trasparente, che è stato già Bene, insomma, mi sembra di capire, in sì, regione, certo. Insieme collegato a questo discorso della separazione, dove è chiaro, è soltanto una interpretazione corretta che si vuole dare, cioè che chi prende soltanto latte DOP in uscita può chiaramente fare anche bene, prodotto non DOP. Bene, abbiamo capito Ernesto, perché sennò ci arroventiamo su certi discorsi un po' troppo tecnici e quindi usciamo fuori e poi molti radioascoltatori forse non capiscono. Però io voglio tornare a Masini e poi anche a Consalvo. Come se ne può uscire Masini il 1 luglio? L'aspettativa è che il Ministero delle Politiche Agricole introduca una norma di interpretazione autentica in grado di stabilire senza alcuna obiezione che chi produce, partendo dal latte e cagliata bufalina, mozzarella DOP, possa anche immettere sul mercato legalmente prodotti della lavorazione secondaria. Ricotta, siero di latte, mozzarelle anche declassificate laddove non rispettino il disciplinare, ma purché derivanti dal latte di bufale allevate nel territorio. L'obiettivo è semplice, quello di evitare che gli 86 milioni di chili di cagliate, i 130 milioni di chili di polvere di latte che sono importati ogni anno in Italia e attraversino le frontiere non raggiungano gli stabilimenti di un'area che tutti riconosciamo come evocativa della grande qualità di questo Bene. Prezioso prodotto dell'Europa mediterranea. Grazie, grazie Masini. Consalvo, chiedo chiaramente, Consalvo, ma questo provvedimento, insomma, andiamo a vedere bene, vuole probabilmente impedire truffe commerciali, secondo lei? Io vorrei assolutamente non dare confusione al consumatore parlando solo di truffe. Noi dobbiamo partire da un prodotto certo, che è il prodotto campano, e il prodotto dell'area DOP è un prodotto assolutamente di altissima qualità. Dobbiamo partire da quello. Noi abbiamo il sistema di tracciabilità che garantisce principalmente il consumatore, dobbiamo lavorare su quello per essere ancora più garantisti verso i nostri consumatori. Quindi per favore cominciamo a parlare in termini positivi di questo settore che ha dato tantissimo e dà ancora tantissimo all'economia nazionale e in particolare all'economia campana. Abbiamo un prodotto di altissima qualità, non dobbiamo assolutamente pensare e parlare solo esclusivamente di truffe, sennò naturalmente creiamo una confusione al consumatore che avrà dei dubbi, e cosa che non deve assolutamente avere, perché non li deve avere, perché il prodotto è assolutamente di altissima qualità. Quindi partiamo da un percorso di tracciabilità già indirizzato dalla normativa nazionale, facciamo in modo che questa tracciabilità venga costruita in Campania, perché ci sono i professionisti per poterlo fare, e da questo punto di vista si parte. Bene, Consalvo, comunque il discorso parte tutto dal Ministero. Credo che il problema dell'indirizzo di questa sua replica debba essere proprio rivolto al Ministero, il quale tace perché è stato chiesto di intervenire, ma il Ministero non interviene e non spiega il perché di questo provvedimento. Noi siamo in una fase di carenza politica istituzionale, non ci dimentichiamo mai, quindi da questo punto di vista anche noi imprenditori dobbiamo fare la nostra parte. Bene, Armando da Reggio Emilia, 30 secondi. Pronto? Sì, 30 secondi. Ah, no, volevo solo dire questo, che non è stato sottolineato, che la legge però nasce a garanzia del cliente, cioè il cliente deve sapere che la bocciatura di bufala campana fatta, come dicevamo prima, con determinate percentuali, con determinate lavorazioni, in un certo modo, in uno stabilimento dove viene prodotta anche una mozzarella mista, cioè con latte di vaccino o con una percentuale di latte di bufala che non sia quella, o con vengono fatti due prodotti simili, non c'è questa certezza. Che poi la legge sia kafkiana, perché è un controsenso fare uno stabilimento dedicato alla mozzarella DOP piuttosto che non sia DOP, questo è vero, però è anche vero che la Bene. Garanzia del cliente in questo momento non c'è, perché basta che la persona che serve al banco sbaglia a mettere la mano in una vasca piuttosto che in un'altra e dà una mozzarella al cliente che non è quella che voleva. Io credo che involontariamente questo non avviene mai, casomai avviene volontariamente. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di mozzarella. Abbiamo sentito un bel po' di interventi e credo che quindi sia una materia molto interessante. Aspetteremo con ansia il 1 luglio. Sentiamo Pietro dalla provincia di Roma. Buongiorno Pietro. Buongiorno, salve. Io mi piacerebbe dire che la mozzarella è uno dei prodotti agroalimentari più controllati che ci sono ed è un attacco che viene, una bomba innescata a suo tempo dal ex ministro Zaia, lo stesso responsabile del fallimento di Buonitalia S.p.A. Si è mangiato tanti soldi per promuovere l'agroalimentare soltanto del nord, non ha promosso neanche un prodotto che proveniva da territori al di sotto dell'Arno. È lo stesso che ha promosso il McItaly mettendo con la McDonald's, mettendo dentro tutti i prodotti della sua Padania, diciamo così. Pietro, purtroppo non ci abbiamo il ministro né chi possa intervenire. Comunque abbiamo sentito la sua accusa, quindi anche lei, come altri radioascoltatori sono intervenuti, dicono bene, e questo provvedimento è fatto per privilegiare il nord, quindi è un'opinione che sento molto diffusa su coloro che stanno, come diceva lei, da l'anno in giù, però non credo che ci sia stato un intervento di questo genere, perché non vedo quale tipo di mozzarella avrebbe potuto così privilegiare. Certo, ormai il numero delle bufale, questo è noto, è frequentissimo al nord. Io lo chiedo a Letizia Gallipoli, che è una allevatrice veterinaria. Mi risulta che il numero delle bufale sia enorme al nord, però non credo che questo provvedimento vada in questa direzione. Volevo chiedere a Letizia Gallipoli cosa ne pensa. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Sì, sicuramente le bufale sicuramente sono in crescita anche al nord, ma non è questo adesso il problema principale. Più che altro io voglio riallacciarmi un attimo ai vari collegamenti e cercare di dare una risposta. Sostanzialmente tutti gli interrogativi che sono stati posti sia sulla tracciabilità del prodotto, come ad esempio l'etichettatura che poneva un altro signore che è intervenuto, sono in realtà le risposte sono in realtà nella modifica del disciplinare, in quanto per la tracciabilità è stato varato in Gazzetta Ufficiale del 10/4/2013 la tracciabilità del latte bufalino a livello nazionale, quindi il consumatore su questo avrà diciamo tutta la sicurezza diciamo che si può auspicare. E inoltre nelle modifiche al nuovo disciplinare praticamente parte integrante un regolamento del marchio che ora non c'è, e ancora di più un ampliamento delle tipologie produttive a marchio DOP. E quindi la signora Maria, che mi sembra essere intervenuta da Battipaglia, che diceva che lo yogurt, che è un ottimo prodotto e un'altra eccellenza, prodotto con latte di bufala DOP, verrebbe in automatico ad essere considerato un prodotto a marchio DOP con tutte le sicurezze per il consumatore finale. Quindi io penso che al di là di tutte le sicuramente le problematiche inerenti, un altro punto che viene diciamo messo in evidenza il vincolo delle 60 ore, quello però è un unico, è un punto cruciale che eviterebbe eventualmente la speculazione sul produttore primario per il declassamento del latte che eventualmente il caseificio marchio DOP non ritirerebbe, in quanto non avrebbe la possibilità di collocare il prodotto di quella giornata richiesta dal mercato. Quindi sì, diciamo che tutto è bello, però poi bisogna tradurlo nei termini pratici e vedere poi in realtà sul produttore primario, quindi in allevamento, cosa succede dal 1 luglio, perché in realtà il problema grande è che diciamo i quantitativi di mozzarella che possono essere poi messi sul mercato sono dettati quotidianamente, il che significa che quotidianamente il caseificio che decide dal 1 luglio di fare solo ed esclusivamente prodotto a marchio DOP, con la normativa scritta così com'è, viene posto in una condizione tale di lasciare parte del latte nel tank delle aziende, e questo comporterebbe un declassamento del latte che viene fatto con tutti i dettami di una DOP, con dei costi altissimi, e comporterebbe un fallimento del settore primario. Quindi io mi chiedo perché il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari non prenda dei provvedimenti certi e non legga, perché questo è il problema, un altro problema grosso è che si parla senza leggere gli adempimenti, senza leggere le carte e senza leggere un lavoro di un anno e mezzo fa fatto di concerto tra allevatori e trasformatori, quindi di un comparto serio che lavora bene. È tutto improntato su una trasparenza, sulla legalità e sulla tracciabilità, che è fondamentale per garantire il consumatore finale, ma soprattutto per garantire l'economia delle imprese agricole che in questo momento, come tutti gli altri settori, stanno soffrendo. Bene, bene, rimanga con noi, mi sembra che così abbia dato un po' una svolta anche a tutto questo. Ma abbiamo con noi anche un personaggio che diciamo un case history veramente straordinario nella zona appunto di Pestum e quindi della mozzarella di bufala in particolare, ed è Antonio Palmieri del caseificio Vannullo. Vannullo, cioè il Palmieri col suo caseificio non fa parte del consorzio, quindi è una voce fuori che io ho voluto sentire. Voglio chiedere cosa ne pensa di questo provvedimento Palmieri, appunto questo che entrerà in funzione il 1 luglio. Buongiorno Palmieri. Ah, buongiorno. Senta, io come ha detto giustamente sono una voce fuori campo, io penso sempre che noi ci sentiamo sempre vittima, noi del sud, qua sento la signora Vilatina Pocanzi che diceva che soffriamo delle ingerenze del nord. Io ho sempre detto che la prima cosa che dobbiamo fare noi, io sono oltre che produttore sono anche allevatore, di essere più coerenti e più onesti a fare le cose. Cioè nel senso che dobbiamo immaginare che non si possono prendere più in giro le persone. E quindi rispetto a questo farci un'autocritica e non pensare che gli altri ci debbano aiutare. Siamo pure gli artefici delle nostre della nostra fortuna, voglio dire, alla fine. Per quanto riguarda il discorso del latte del primo luglio, che si dice che la mozzarella e quindi la ricotta deve essere messa da parte, perché la ricotta non è DOP e la mozzarella è DOP, mi sembra una cosa abbastanza così ovvia, cioè nel senso che se la ricotta esce dal latte, dal siero del latte dove è stata fatta la mozzarella, il fatto di non far produrre nello stesso locale la ricotta mi sembra una cosa abbastanza strana, ecco, queste sono un po' le mie considerazioni, perché alla fine o fare la mozzarella a un locale a fianco, ma che significato ha? Quando quella ricotta viene da un latte che è stato trasformato e c'è tutte le caratteristiche per essere DOP. Certo, quindi giustamente questo è il discorso dei prodotti, diciamo, a filiera, di quelli che, diciamo, che sono collegati alla mozzarella DOP. Sentiamo Marzio dalla provincia di Treviso, 30 secondi Marzio. Sì, buongiorno, io mi considero un estimatore perché questa mozzarella è deliziosa. Però vorrei essere rassicurato dal punto di vista sanitario, perché so che molti terreni lì in Campania sono inquinati. Bene, allora guardi, chiediamo subito a Letizia Gallipoli, forse che è veterinaria, meglio di tutti ci può rispondere. Allora, guardi, veramente posso rassicurarlo, perché in Regione Campania assolutamente le zone che erano state imputate di non essere idonee al pascolamento degli animali e quindi all'alimentazione sono state bonificate, e quelle che ancora sono ancora sotto bonifica non sono non sono date al pascolo e non vengono coltivati prodotti che vanno poi nell'alimentazione del bestiame. Quindi questa è una sicurezza proprio per le normative sulla sicurezza alimentare, e la Regione Campania in questo caso devo dire che veramente ha saputo gestire in modo lodevole le problematiche legate al territorio, ad una piccolissima parte del territorio, e questo ci tengo a sottolineare, perché veramente è una piccolissima parte del territorio. Quindi sia l'eccellenza che viene prodotta sulla provincia di Caserta, sia l'eccellenza che vengono prodotte sulla provincia del Salernitano, assolutamente sono, da un punto di vista sanitario, eccellenti. Bene. Quindi bene, la massima tranquillità. Credo che i nostri radioascoltatori siano stati rassicurati da questo. Bene, siamo arrivati in fondo, io non mi resta altro che aspettare il primo luglio, vediamo cosa succederà, speriamo che si intervenga in tempo prima che parta questo provvedimento. Da quanto abbiamo sentito, tutti sono d'accordo nel reintervenire in qualche maniera. Bene, visto che siamo nella zona di Napoli, di Salerno, devo dire, abbiamo parlato di mozzarella, vorrei ricordare che c'è in corso un sondaggio per la miglior pizzeria dell'anno proprio sul sito del Gastronauta, e il Veneto davanti, quindi prego appunto tutta l'area appunto Salerno-Napoli di votare per le proprie pizzerie, www.gastronauta.it. Bene, un buon weekend da Davide Paolini e appuntamento domani con il riposo del guerriero.